Quando la magistratura interviene ad inquisire i politici, la domanda che scatta immancabilmente è: a chi giova? Non credo sia la maniera migliore di interrogarsi sul rapporto giustizia-politica. In ogni sistema democratico la magistratura deve mantenersi distante ed autonoma dal potere politico, altrimenti si confondono i ruoli e viene meno dei pilastri e delle garanzie del sistema stesso. Il vero problema è come mai in Italia la magistratura interviene così spesso. Il costume nazionale, e quindi anche quello della classe politica, non è incline al rispetto rigoroso delle leggi, tende piuttosto al lassismo. E quando entriamo nel mondo degli affari e del rapporto economia-politica, gli accordi sottobanco, i favoritismi, le cordate più o meno palesi e le vere e proprie corruzioni diventano ancora più frequenti. Nessuna parte politica può dirsi immune dal rischio. Tutte devono quindi accettare serenamente, senza strillare ai complotti o prospettare dietrologie allambiccate, il lavoro dei magistrati. Per ora, dagli inquisiti del Partito Democratico, oggi nell'occhio del ciclone, non sono partite accuse o cortine fumogene di questo tipo. Vedremo se resisteranno alla tentazione di individuare trame occulte o ricatti politici. E attendiamo l'esito delle inchieste che, in vari casi, da una parte e dall'altra, si sono risolte in una bolla di sapone.